Eccoci tornati qua, cari amici, mentre potete sentire il sottofondo bisignanese, ma non ci sono problemi, ragazzi, lo eliminiamo in un batto d'occhio. Ecco, ci siamo. Sta per arrivare il momento clou di questa sera, il momento che farà commuovere le vostre ascelle. A voi che ci ascoltate, purtroppo che ci ascoltate a casa, quando prenderete la vostra macchina andate contro mano, perché dopo aver sentito Capate, diciamo, vi prenderà la pazzia. Allora, è arrivato il momento di lanciare, Grazie Ferrovie, ok, qua mi dicono cazzi Ferrovie, quindi lanciamo il momento più in che ci è richiesto, che piace agli amici, direttamente dal web lanciamo le Crazy Ferrovie a voi, ragazzi.